Siamo in collegamento con Stanthony o St. Anthony, poi lui magari ci dirà qualcosa di più. Al secolo Antonio Pastore, giovane musicista, scrittore, compositore, in occasione dell'uscita del suo ultimo singolo intitolato On the Line, che anticipa l'album. Ciao Pasto. Ciao, ciao Vale. Intanto vorrei dire che sono raccomandato. In realtà, è raccomandato, perché, sì. Perché sono amico di vecchia data di Vale, quindi conoscendoci sono riuscito ad intromettermi, esatto, in questa trasmissione. Mi è fa vero. Molto molto piacere. Però dobbiamo dire la verità, Pasto, per gli amici, Pasto in realtà forse è anche, certo, il tuo nome di nascita, in realtà l'anagrafe. Ma sì, ma si può, certo. Esattamente. In realtà non mi chiamo Antonio. Esatto, in realtà caro nostro Antonio Pastore, Pastore al secolo, ma Stanthony a livello artistico, ha scelto questo nome perché? Ho scelto questo nome perché dunque avevo un altro nome prima che volevo mettere, però non mi piaceva, e volevo un nome in cui fosse incluso anche proprio la parola Antonio e che fosse allo stesso tempo tra virgolette internazionale, perché dico molto umile, perché diciamo che i miei riferimenti sono non del mercato italiano ma del mercato insomma statunitense, del mercato inglese, insomma di tutt'altra scena. Poi ho pensato, vorrei metterci, però è difficile trovare un prefisso, qualcosa con Anthony. Mi è venuto in mente ST, che vuol dire anche Saint, quindi Saint Anthony, essendo la mia tega artistica di vita, insomma, basata su tanti aspetti dell'italianità, tra cui la religione. Allora diciamo Saint Anthony, Sant'Antonio, Sant'Antonio da Padova, Sant'Antonio Abate, sono dei santi veramente importanti, diciamo, nella liturgia. E quindi ho detto dai, bomba, ci sta, mi piace questa cosa, certo, qui. Ma lo sai che proprio poco fa nel fuori onda facevamo battute su questa cosa, io dicevo ma Saint Anthony come Sant'Antonio, e Valerio faceva ma no, ma non credo, e invece, cioè, invece avevi anche questo ragione. Sottofondo religioso c'è anche sì, lui. Sì, ma perché diciamo che la mia tega nasce un po' proprio dal voler prendere tutti gli aspetti della mia italianità, essendo italiano è quindi molto difficile presentarmi in un mercato estero, quindi ho detto vabbè, a sto punto evitiamo di cercare di nascondere il fatto che sono italiano e anzi facciamo che sia il mio punto di forza. Quindi bene. Insomma ho intrapreso questa tattica promozionale basata sulla mia italianità, che esploderà con l'arrivo del secondo video che insomma arriverà tra un po', ecco. Perfetto, viva il Made in Italy. Ma parlando invece del primo singolo e non del secondo singolo, si intitola On the Line e c'è anche un videoclip, parlacene un po'. Yes. Allora, On the Line è nata in un periodo della mia vita veramente depresso, nel senso che io ho passato gli anni dai 20 fino ai 24, prima che andassi in tour con Paletti Mallimide, dopo di questo ne parleremo. Comunque era un periodo in cui facevo tante cose, ma pochissime di queste cose mi piacevano, un po', sapete, un po' quell'età in cui dici ok, devo capire cosa devo fare nella vita, che ruolo ho nel mondo. E quindi, insomma, sì, ho fatto tante cose, ma era più un arrabattarsi per cercare di arrivare a fine mese, tra virgolette. Ho detto vabbè, tanto vivo ancora con i miei, freghiamocene dell'aspetto di arrivare a fine mese, quello in un modo o nell'altro ce la posso fare, e cerchiamo di creare qualcosa di veramente mio. Allora ho cominciato anche un po' a studiare, nel senso, la stampa, la press, quindi che ne so, Pitchfork, tante riviste in cui ci sono pubblicazioni musicali molto vicine all'R&B, che è un genere, rhythm and blues, quindi musica nera, soul tendenzialmente, è un genere a cui sono molto legato, tant'è che mi definisco R&B. E niente, quindi partito questo periodo di ricerca, sperimentazione, è successa poi una cosa molto particolare e da quella cosa è nata On the Line. Questa canzone è un po' una summa delle mie insicurezze, del mio sentirmi perennemente sfigato e sì, ma io proprio nella vita tranquillamente lo dico, mi sento uno sfigato e anzi faccio fatica anche a riconoscere i frutti del mio lavoro, di solito, quindi anzi sono là che dico no, ma non ho avuto risultati sufficienti, bisogna andare avanti, e quindi mi comincio anche a frustrare su queste non cose. Non a caso sei della Vergine, giusto Pasto? Non sono della Vergine, sono del Toro, ma tant'è che prima mentre stavate facendo l'oroscopo lo stavo confrontando con quello di Paolo Fox di stamattina, però come al solito mi sono reso conto di non capirci niente di astrologia, quindi ho detto vabbè, tranqui, insomma, senti, Pasto, meglio che no. Invece, a parte questa piccola parentesi depressa, come l'hai definita tu riguardo On The Line, il progetto che ti propone di portare avanti nell'album, che non è ancora uscito, però se riesci a darci qualche anticipazione... Ma certo, ma certo. Allora, il disco esce, che in realtà è un EP di 6 brani, quindi insomma dura 25 minuti, mi sembra, e esce questo venerdì sul mio Instagram, poi vabbè, insomma, di queste cose ne parleremo, perché c'è il link in bio per prenotarle, eccetera, eccetera. Comunque, sono 6 brani, diciamo che non sono classificabili in una corrente questi brani, quindi già canto in inglese, quindi è molto facile promuovermi, poi non sono manco classificabili in una corrente, ancora più facile, però vabbè, insomma, nel senso che un brano è più funk, un brano un po' più trap, un brano invece è un po' più jazzy, uno, insomma, ogni brano ha la sua identità. Sono 6 brani, è la mia primissima prova, quindi assolutamente pronto a migliorare, pronto ad ascoltare critiche e qualunque cosa. E questi brani in realtà ho cominciato a registrarli a fine 2017 e li ho ultimati, insomma, metà barra fine 2018, ecco. Quindi si passa un po' da, appunto, On The Line, che è il primo singolo, ed è appunto una summa di tutta la mia carenza di autostima, tra virgolette, a, ad esempio, un altro pezzo che si chiama Neolatino, che sarà appunto il secondo video, che invece sarà una summa degli stereotipi sull'italianità che si hanno nel mondo, che possono essere ovviamente, vabbè, Berlusconi, poi dai, è uno stereotipo anche quello, Berlusconi, pizza, mandolino, spaghetti, insomma, tutte quelle cose lì sono piazzate in questo video, in questo singolo. Oppure, che ne so, c'è un altro pezzo che si chiama TYT, sarebbe Take Your Time, e ho dovuto cambiare il titolo per questioni legate a SIAE, vabbè, menate che succedono solo a me. Comunque questo brano, che si chiama TYT, ad esempio, invece parla della mia, come dire, essere goffo nell'approccio con il genere femminile, possiamo dire così. Quindi sì, no, ci sono tante tematiche, ed è invece un brano dancehall, ma dico dancehall per non dire reggaeton, però non è il reggaeton tranquillo, non è il reggaeton alla Baby K. Ma è in spagnolo? No, no, è tutto in inglese. Sì, non è spagnolo. Magari penso allo Spanglish la prossima volta, come faceva Ricky Martin qualche anno fa. Esatto. Senti, potrebbe risultare una domanda superflua, visto che ci hai spiegato che ogni brano ha la sua identità, però come definiresti il tuo genere musicale? Allora, io sui tag per iTunes, Spotify, quindi insomma mi sono già dovuto trovare davanti a questa domanda, esatto, e ho scelto R&B Soul, e ho deciso tra quello e alternativa, poi lì entrano mille altri discorsi che riguardano, vabbè, dove va a finire la tua musica, eccetera, eccetera, ma questi sono altri discorsi, però io direi che R&B, anche perché a livello di scrittura, boh, io ho una matrice che sì, è legata all'hip hop, al new soul, insomma alle nuove correnti, di solito tendenzialmente americane. Però come songwriting è legato ancora ai vecchi, come diceva anche Emanuele prima, ho detto anche tu grande, Prince, Stevie Wonder, Michael Jackson, insomma... Vi abbiamo accoppiati bene! avete accoppiati benissimo, infatti poi... sentito il pezzo, ho messo pure una story in cui lo ballo, perché poi mi diverto a fare le story. Ascolta, Pasto, io ti volevo chiedere a chi ti ispiri, ma in realtà ci hai già fatto un elenco ben esatto, ben fornito, diciamo, di tutti. Ma voi dovete fermarmi no, io hai anticipato troppo la domanda, anzi, esatto. però okay, una domanda ancora più importante è quando uscirà l'album e soprattutto dove sarà possibile reperirlo. Yes, of course. Allora, l'EP, quindi l'album, esce dopodomani su Spotify, su Apple Music, ci sarà il video che sarà su YouTube, ma anche su Vevo, per i pochi che hanno Apple Music qui in Italia sarà anche già in realtà il video su Apple Music, e niente, tra l'altro si può anche fare un pre-order o un pre-save dentro Spotify di questo EP, che cosa significa? Che se voi cercate su Instagram Stentony Music, poi Stentony, vabbè, non sto qua a farvi lo spelling, comunque Stentony Music, il link in bio, cliccate lì sopra, praticamente vi porta a una pagina dove potete pre-salvare il disco e venerdì mattina vi sveglierete, oppure, che ne so, se vi piace fare tardi, a mezzanotte di venerdì, magicamente vi ritroverete dentro la vostra libreria di Spotify Stentony, che è appunto il mio primo EP, sperando che vi piaccia, ecco. Una bellissima sveglia. Senti, invece, hai per caso delle date in programma? Allora, questo è un bellissimo discorso, un bellissimo argomento, perché dunque, allora, il mio progetto iniziale era di andare con band. Il problema di andare con band, che è logistico, è meramente logistico, è che giustamente devo garantire un bel trattamento ai miei musicisti, già avendo fatto un tour di 40 date con questo cantautore che si chiama Paletti in giro per l'Italia. So benissimo che appunto può essere frustrante e quindi mi risulta difficile, date le mie economie adesso e insomma le mie prospettive in questo preciso momento. Però il 12 settembre in provincia di Verona, a Peschiera, al Meet Hostel, che è un ostello a Peschiera, farò una data che sarà tastiera, voce e qualche sequenzina, quindi qualche batteria ma leggerissimissimissima sotto alla James Blake, che avete messo anche prima, tra l'altro, potrei dire. E niente, questa è l'unica data che ho per adesso, purtroppo, però conto insomma in questi mesi di riuscire a organizzare un tour o un mini tour o qualcosina con un'agenzia di booking, ecco, che è quello l'obiettivo finale relativamente ai concerti, ecco. Va bene, Pasto, allora noi ti ringraziamo, invitiamo gli ascoltatori a tenersi aggiornati sulle tue pagine. Ci vuoi indicare qualche nome di pagine Facebook, Instagram? Assolutamente sì, assolutamente sì. Io vabbè, sono un po' dappertutto in realtà, ma quello che vi consiglio di fare è seguirmi su Instagram, anche perché durante la giornata vi accompagno sempre con qualche story stupida, mi diverto a fare queste cose. Molto divertente in realtà. Sì, dai, spero di sì. Sei tu che le guardi di solito, quindi sei tu che devi dare il giudizio. Garantisco. No, comunque guarda, su Instagram mi chiamo Stentony Music, lo spelling, dai, evitiamo di farlo, troppo tempo radiofonico che va via. E altrimenti su Facebook uguale, la pagina si chiama Music by Stentony. Tra l'altro, sentite questa, non ho potuto chiamarla Stentony perché la parola Stentony è troppo vicina alla parola New Orleans. Ah, la giuro c'ho lo screen, interessante. Non guarda gli algoritmi di Facebook, quindi non ho potuto chiamare la pagina Stentony, ma si chiama Music by Stentony. Comunque, ecco, se scrivete Stentony la ricerca la trovate, sì. Allora, poi su YouTube c'è il video e scusa, vai. Niente, figurati, anzi, ancora una volta gli ascoltatori invitiamo ad andare su YouTube a recuperare il tuo singolo, il videoclip del singolo. Ti ringraziamo tantissimo per essere stato ai nostri microfoni, Stentony, al secolo Antonio Pastore, detto Pasto, e speriamo di sentirci presto, magari per, non lo so, mandare in onda qualche altro pezzo del tuo album. Lasciamo agli ascoltatori l'opportunità di ascoltare il tuo singolo allora a questo punto. Dai, ciao Pasto, grazie. Volentierissimo, grazie a voi, ciao ragazzi. Ciao.